il nostro anonimo Thanos. E giusto velocissime istruzioni per cominciare al meglio il test. Come ogni anno dedichiamo questo gesto di cura verso gli artisti, verso le performance, telefono in modalità aereo. Vi preghiamo, non silenzioso, non vibrazione, comunque la luminosità, la vibrazione potrebbe disturbare la vostra presenza durante le performance, quindi in modalità aereo vi ringraziamo. Poi, come vi consiglio, come ben sapete, Altoverse è un luogo tutto dinamico e ci muoviamo, qui particolarmente ci colpiamo, insieme agli artisti che animano questo festo e insieme ai donatori che li ospitano. Quindi, come al solito, anche in questo spazio vi chiediamo di stare attenti a dove, alla vostra presenza, fare in modo che tutti possano riuscire a vedere, a partecipare, per cui abbiate cura dell'altro, i più bassini avanti, o da bassina, e cerchiamo di stare attenti a noi e di trovarvi dietro senza disturbare la visione di tanti. Seguiamo l'artista in questo caso, ci piace ricordare da Antonino, mi sembra di aver detto tutto, vi ricordo che la giornata è lunga, spero di incontrarvi ancora nei prossimi spettacoli o almeno che comincia alle 14. Esatto, perfetto. Buon altro per te. Magari possiamo lasciare le borse all'entrata perché è una quota attiva. Thank you. 20 minuti per fare. Pensiamo a finire di mente. Hold the legs! Ciao! Tutti Wow. Ricordate un po' di più, guardate un po' di più. Distribuire anche qua. Io metto qua che... devo fare dei piccoli esercizi, dei piccoli rubini rossi che faccio. Queste questo è l'esempio che anche voi avete visto. Che grande sono. Se vi piacciono, no. Guardate bene. secondo buon momento. Strizzate il mignolo e il pollice per avere questo suono, dove le mani congiungono in maniera proprio simmetrica. Ma poi gioca da casa. Continuiamo o andiamo? Va bene, finiamo qui. L'ultima cosa, difficilissima. Solo della goccia me lo spiego, dai, così. Dovete provare a creare una cassa armonica con la bocca. La bocca non deve essere molto... Secondo di come posizionate le labbra. Ma se devi espirare, non c'è. Va niente. La lingua dietro, è perché è molto forte. La lingua dietro. Secondo di dove la metti, hai il suono che vuoi. Ma questo è una scena di poco. Non potrò fare adesso. Provate anche così. Sabato in questa sala alle 16.30 faccio un laboratorio di percussioni corporali. Quindi per chi è a Napoli sapete dove trovare il cellino. E chi non è a Napoli facciamo anche le sedie online. Esatto. E soprattutto questo appuntamento che si ripete anche domani e domenica. Quindi se domani e domenica tornate avrete metabolizzato le cose che avete studiato oggi, perché è un processo normale del cervello, che lo vogliate o no. Se tornate e ricominciamo a fare questo lavoro, sarà tutto molto più agevole e molto più semplice. Se vi trovo poi.